Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Affrontiamo oggi un tema che ha molti anni sulle spalle, sul quale ancora non ci sono risposte definitive, ma per il quale le associazioni dei consumatori hanno fatto causa addirittura al governo. I telefoni cellulari possono provocare tumori? Questa è la domanda, questo è il timore e per questo c'è stato questa azione legale. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dicevo, se ne parla da molti anni dei rischi possibili, c'è chi è più prudente, c'è chi invece era possibilista, però voi associazioni di consumatori avete deciso di andare dritti. Sì, diciamo che ufficialmente è stata depositata la prima causa a TAR del Lazio, proprio perché su questa vicenda ormai si è tutti convinti che i cellulari provocano il cancro. Ma sostanzialmente quello che più ha dato fastidio è l'atteggiamento che le autorità hanno nei confronti di questi dispositivi, i quali non avvertono i consumatori che nel loro utilizzo scorretto o indiscriminato può provocare alla salute, al pari delle sigarette e degli alcol. Cioè praticamente è appurato quello che sono i danni derivati dall'elettrosmog, la causa depositata a TAR del Lazio è stata proprio contro i ministeri dell'ambiente, della salute e dello sviluppo economico e della ricerca, colpevoli di non divulgare i rischi a cui sono sottoposti quotidianamente le persone che usano il cellulare, ricordiamo, senza viva voce, cioè senza auricolare o viva voce. Certo, perché quegli strumenti vengono raccomandati appunto per essere più distanti dalle microonde che appunto un cellulare genera. Voi ovviamente per presentare questi ricorsi vi siete basati su dei dati, non solo su una paura o su una sensazione. Il 31 maggio del 2011 l'OMS ha diramato una raccomandazione ufficiale con le misure di protezione da usare. Partiamo da quello che deve essere quindi un comportamento che è noto a tutti per evitare appunto l'insorgere di questi rischi, di queste patologie, cioè tenere il telefono lontano dalla testa, usare auricolari, via voce, non tenerlo sotto il cuscino, allontanarlo di notte e limitarne la durata delle chiamate. Ad oggi, essendoci una comunicazione ufficiale, ma da parte di tutti e soprattutto abbiamo detto degli enti che dovrebbero vigilare e fare prevenzione, non c'è la benché più piccola comunicazione, ma anzi continuiamo ad assistere a campagne pubblicitarie che tendono a regalare minuti, addirittura anche illimitati, quindi tendono paradossalmente ad incentivarne l'uso a discapito di quella che è una salute che viene messa a rischio. Il primo tribunale ad essere stato interessato, depositato, quindi è stato TAR del Lazio, ma prossimamente verranno estese le denunce in tutti gli altri TAR presenti in tutta Italia. E certamente ricordiamo che questa iniziativa poi è stata frutta anche di quella che è stata la prima sentenza che una persona è riuscita ad avere proprio in funzione di quello che è stato l'utilizzo dei cellulari da parte di un dirigente dell'azienda bresciano che passava 5-6 ore al giorno, che è stato anche noto alle cronache in quanto vinse proprio una causa contro l'INE nel 2012. E quindi questa, essendo arrivata fino alla Cassazione e avendola vinta, a questo punto ci sono anche i riferimenti giuridici per poter essere una sentenza pilota e quindi portare avanti quelle che sono le iniziative delle associazioni nei confronti di questo strumento che risulta sì utile ma anche alquanto dannoso. Soprattutto consideriamo anche che ad utilizzarlo indiscriminatamente sono anche i minori, i bambini, quando a certe tenere età questi apparecchi non dovrebbero essere minimamente utilizzati. Ecco, a proposito di utilizzo, ma anche un conto è quando ci si parla, ovviamente lo si tiene vicino al telefono. Io racconto la mia esperienza personale, ma credo sia anche la tua. Quando lo tieni per più di qualche minuto al telefono, un po' di caldo cominci a sentirlo, perché evidentemente le onde fanno il loro lavoro. Penso anche ad un'altra cosa, che l'abitudine di tanti giovani, ma anche di tanti adulti, è di tenerlo in tasca, nelle tasche dei pantaloni, anche le ragazze o i ragazzi. Insomma, le onde, se colpiscono la testa, le orecchie o il cervello, nelle parti basse, nelle nostre parti basse, colpiscono altri apparati, e credo che anche lì potrebbero ingenerarsi dei danni. Quello che voi chiedete è sostanzialmente, facendola così un po' breve, è che anche le aziende che producono cellulari, il telefono, perché qui non c'entrano le compagnie telefoniche, ma l'azienda produttrice dell'apparecchio, dica quali sono le precauzioni, lo dica chiaramente, come dicevi all'inizio per le sigarette. Certo, però a dare le direttive su un corretto utilizzo di questa apparecchiatura deve essere lo Stato e il ministro di competenza. Qua oggi c'è un buco istituzionale incolmabile, quindi se le compagnie agiscono nel loro interesse, è anche vero che d'altra parte i governi, i ministeri e via dicendo assistono in maniera impassibile a questo danni alla salute che le persone ricevono. Tu per esempio hai accennato a tenere il telefono in tasca, è stato dimostrato che provoca sterilità, quindi non certo è non certo provoca tumori, però voglio dire, in questo momento di fronte a quello che è un agente possibile cancerogeno per l'uomo, il governo di fatto non ha mai avviato una campagna di prevenzione. Addirittura la risposta era stata nel 2011 a fronte di una comunicazione dell'OMS, appunto, che ricordiamo che l'OMS è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva detto: sì, avete ragione, cercheremo nel limite delle risorse disponibili a fare un'adeguata campagna. Ad oggi non è stato fatto nulla e sono trascorsi quasi 3 anni, per cui a questo punto dobbiamo renderci conto che qualcuno deve assumersi la responsabilità, e noi anche noi abbiamo il compito di fare in modo che qualcuno questa responsabilità la sostenga, perché certamente in questo caso, se sappiamo che il gioco d'azzardo fa male, che l'abuso dell'alcol fa male, che le sigarette fanno male, dobbiamo anche dire che l'utilizzo del cellulare fa male, e quindi anche educare le persone, perché ricordiamo che in Italia ad usare il cellulare, compresi i bambini, sono oltre 40 milioni di persone, quindi una bella fetta, e sicuramente gli effetti di questo utilizzo li sortiremo, se continuiamo così, nei prossimi anni. Certamente tu mi hai fatto anche l'esempio a me del cellulare, io per esempio purtroppo per lavoro sono costretto a usarlo molto, però io uso esclusivamente l'auricolare con filo, e devo dirti che quando mi capita di utilizzarlo senza filo, non solo il calore ma un zio mal di testa mi viene subito, quindi posso portare anch'io stesso la testimonianza di come, utilizzando in una certa maniera, se utilizzato malamente, questo apparecchio veramente risulta essere dannoso. Ed è giusto che appunto si cominci a prendere una direzione, che questa direzione insomma venga portata avanti da chi di competenza deve rispondere in questo senso. E allora cominciamo noi stessi per primi, i nostri figli, i nipoti, a usarlo nel modo più adeguato, nel modo più prudente possibile, in attesa che poi arrivi questo obbligo che voi chiedete tramite questa causa contro il governo. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Settimana prossima altri 2 argomenti da affrontare insieme. Buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.